La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, come sempre ogni sabato tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Sarà una puntata straordinaria, ve lo dico già, tantissimi ospiti, tanti film bellissimi in un weekend che veramente da tempo non vedevamo, per densità, qualità, varietà della proposta. Parleremo di film che stanno per vincere l'Oscar, come Il figlio di Saul, parleremo di film che hanno vinto Venezia, come Ti guardo, parleremo di Steve Jobs, di Danny Boyle, parleremo insomma di grandi film, parleremo di Ettore Scola, che omaggeremo alla fine di questa puntata con il ricordo di Gianni Canova, ma parliamo soprattutto e innanzitutto di commedia, di leggerezza, di risate all'italiana con Se mi lasci non vale. La tua come si chiama? Federica. La mia Sara. Quella è Federica. E quello che è? Quello è Nammeri. Gliemenamo. Ma che gliemenamo? Le lasciamo. Cioè, io devo conquistare la tua Sara e tu devi conquistare la mia Federica. Io sono un attore vero. Io ho vinto la Spiga d'Oro come miglior figurante del cinema italiano. 200 euro? Ma mica al giorno. A settimana. Ah, io devo dire. E quindi non accetti? No, accetto. Quando iniziamo? E questi sono alcuni dei momenti di Se mi lasci non vale, la storia di due uomini lasciati dalle rispettive compagne, si trovano in una notte piuttosto triste e decidono di vendicarsi. Cioè, come vendicarsi? Far sì che la rispettiva compagna si innamori dell'altro e a quel punto lasciarle, così almeno soffrono. Questo è il piano diabolico escogitato da Vincenzo e Paolo. Li aiuterà, si fa per dire, perché in realtà intreccerà un po' i fili, Alberto, teatrante, l'avete sentito, ha vinto anche la Spiga d'Oro, teatrante interpretato da Carlo Buccirosso, e insomma così il trio è completo in un cast che vede Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso appunto e Paolo Calabresi. Vincenzo Salemme, come è ormai una tradizione ogni volta che arriva un suo film, è qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Vincenzo. Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene e mi sembra anche tu, tutto sommato, da questo film frizzantino che ci hai tirato fuori, che ti dico, gli americani la chiamano slapstick comedy, cioè la commedia degli equivoci, e veramente tu hai lavorato molto su questo genere, che ne fa un film che esce, secondo me, dai confini italiani, è un film tranquillamente godibile, riproducibile anche oltre cortina. Grazie, mi fa piacere che tu lo dica, perché volevo proprio fare una cosa, raccontare un sentimento universale, che poi è l'amicizia, perché è un film che parla sì d'amore, ma in realtà il sottofondo vero è quello dell'amicizia, perché poi alla fine io e Paolo Calabresi diventiamo amici durante questa strategia abbastanza buffa e immatura, con Buccirosso diventiamo amici nonostante un primo contrasto, perché lui crede di essere un grande attore, io e Tosca diventiamo amici, Tosca e Serena diventano amiche, e per cui è un film proprio che racconta la nobiltà di questo sentimento, che riesce a comprendere anche chi è totalmente diverso da te, mentre l'amore invece tende a, mi sembra, a chiudere, a restringere i confini. Senti, scenario, una Napoli che hai ripreso in maniera splendida, insomma la città si presta, però sei andato a trovare anche degli scorci particolari. Scorci particolari relativamente, perché devo dirti la verità, perché la città è veramente bella, poi è chiaro che se tu vai a scovare le contraddizioni ne metti in luce parecchie, ma questo riguarda tutte le città. Io ho semplicemente poggiato l'occhio su Napoli, e che è come una bella donna proprio, che si fa guardare e si fa accarezzare molto, nel senso non volgare del termine, si fa accarezzare proprio ama le carezze, è una città che ama le carezze. Assolutamente, carezze ne arrivano molte. È un momento ovviamente per la commedia italiana e per il film comico italiano, da Leoni, visto il successo del film di Checco Zalone, che ha superato ormai 60 milioni di euro di incasso. Tu però, 2 anni fa, io mi ricordo un titolo che diceva Salemme e Leopardi salvano il cinema italiano. Ecco, tu arrivi dal successo di E fuori nevica, insomma, quindi, come dire, grandi aspettative. Con il tuo pubblico e con un pubblico anche allargato da questo film. Spero, esatto, spero allargato appunto da un orizzonte diverso che mi pare avere questo film, perché lì Fuori Nevica era un film che richiamava un titolo abbastanza famoso tra i miei affezionati del teatro, per cui adesso si parte invece con un titolo nuovo, una storia nuova che ha una scritta insieme a Paolo Genovese, da un'idea non mia, insomma è un film decisamente diverso da quello precedente, fa ridere lo stesso, ma mi auguro che raccolga un pubblico anche più vasto, non numeroso, più vasto, proprio un tipo diverso di pubblico oltre a quello solito. Senti, dimmi una cosa, dopo tanti anni che vi conoscete, lavorate insieme, su Carlo Bucci Rosso, perché lui tutte le volte che lo vedo mi sorprende un pezzettino di più. Guarda che ovviamente è l'attore a cui sono più legato, è un attore a cui devo molto e che devo dire mi ha dato molto, per cui siamo, ogni volta che siamo insieme il pubblico sente tutta questa storia, probabilmente sente che c'è questo passato e ne apprezza proprio la complicità. Spero di fare altre cose. Assolutamente, assolutamente. Vincenzo, grazie, in bocca al lupo per il tuo film, e magari ti porterà a vincere la Spiga d'Oro, che ne sai? Bravo. Ambitissimo. Grazie. Premio cinematografico virtuale miglior figurante del cinema italiano. Grazie Vincenzo Salembe per essere stato con noi alla Rosa Purpurea. Grazie, un abbraccio a voi, grazie. E adesso le notizie dalle strade, fra poco torniamo e affrontiamo un film di tutt'altra, qui abbiamo parlato di lievità, di carezze, di Frizzantino, di là si va nel dramma vero, ma con un film straordinario che si intitola Il figlio di Sam. La Rosa Purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, e fra le novità di questo fine settimana, come vi annunciavamo, ci sono film di grandissimo spessore. È sicuramente il caso di Il figlio di Saul. Il figlio di Saul è un film diretto da Laszlo Nemes, è la sua opera prima per quanto riguarda un lungometraggio, con un cast, un regista ungherese, con un cast che vede soprattutto la grandissima prova di Geza Röhrig, e spero di averlo pronunciato bene. Il figlio di Saul è un film di grande impatto emotivo, storico e a livello anche di linguaggio filmico. Siamo nell'ottobre del 44. Saul, il Saul del titolo, è un ebreo ungherese deportato ad Auschwitz e fa parte di un Sonderkommando. I Sonderkommando erano quei gruppi composti da ebrei che dovevano sostanzialmente accompagnare alla morte, alle camere a gas, gli altri ebrei, quelli che arrivavano nei campi di concentramento. Siamo nel 44, quindi è una sorta di macchina infernale della morte Auschwitz. Le persone, gli ebrei arrivano, vengono scaricati dai treni, vengono mandati direttamente nelle camere a gas. La vita di Saul è questa, e sanno quelli dei Sonderkommando che dopo 3-4 mesi toccherà anche a loro, perché non ci devono essere testimoni di questa tragedia. Il ragazzo! Dov'è il ragazzo? L'ho portato al sicuro. Ho dovuto nasconderlo agli altri dottori. Non puoi scambiarlo con qualcun altro? No. Devo fare l'autopsia. Devo documentare tutto. Vieni. L'avete sentito? Un giorno Saul, in uno dei tanti cadaveri che si di Stück, i pezzi, come li chiamano gli nazisti, che si ammonticchiano fuori dalla camera gas, pensa, crede di riconoscere quello di suo figlio, quello di un bambino. Ci vede suo figlio, fino alla fine il regista ci tiene lì a capire se è davvero suo figlio, se si tratti di un'illusione. E comunque Saul così si comporta. Saul non vuole che questo bambino venga sottoposto ad autopsia, come avrebbero voluto le autorità mediche del campo di concentramento. Vuole dargli una sepoltura secondo il rito ebraico. E allora parte la ricerca disperata dentro questo inferno che è l'Auschwitz, soprattutto di quel momento, parte la ricerca disperata di un rabbino che possa officiare l'ultimo rito e possa permettere una sepoltura a questo corpo che nel frattempo viene nascosto all'interno delle baracche del campo di concentramento. Insomma, un uomo che mette la dignità in quel momento così difficile davanti a tutto, anche davanti alla storia. È in collegamento con noi Vieri Razzini, che oltre ad essere un prestigioso collega critico cinematografico è anche colui che ha deciso di distribuire in Italia Il figlio di Saul, e secondo me noi dobbiamo ringraziarlo per questo, perché è un film straordinario. Vieri, ciao, grazie di essere tornato qui alla Rosa Purpurea. Cosa ti ha convinto subito all'inizio di portare nelle sale con Teodora questo film? Senti, intanto diciamo una cosa che io non una parola che non uso mai, ma è un film importante, che non, non è una categoria estetica, però è veramente, anche perché dei Son del Commando si è parlato pochissimo fino agli anni Ottanta, in cinema non si era mai visto nulla di simile. E poi soprattutto che ha una, il film ha una forma assolutamente straordinaria. Il film evita l'esposizione più o meno pornografica dell'orrore, cioè quello che succede intorno al protagonista viene fatto percepire proprio per bagliori, per momenti brevissimi, è spesso fuori fuoco, si intuisce più che vedere, capito? Tu l'hai raccontato benissimo, tra l'altro, ma insomma, questo schermo quadrato, proprio per non allargare lo sguardo all'orrore che sta accadendo intorno al protagonista, il quale è costretto poi a questo lavoro frenetico. La macchina da presa sta molto con lui, che è appunto questo attore Gesar Oehrig, il quale tra l'altro è un attore non professionista, è uno scrittore, poeta, ma dà un'interpretazione straordinaria, un'intensità, perché ha questa faccia impietrita e nello stesso tempo estremamente espressiva, quindi insomma una bella scommessa quella. Una bella scommessa vinta, direi, tra l'altro, perché è vero che nei suoi occhi ci sono i momenti in cui sembra di essere di fronte quasi a un fantasma e momenti invece di improvvisa e violenta vitalità, che cerca appunto, come dicevo prima, Vieri, il valore della dignità davanti a quello della tragedia. Sì, la dignità, e poi è anche, cioè è un atto umano in mezzo a tutto, a questi atti disumani a catena, proprio è l'unico atto umano che gli rimane, che lui può compiere, quindi ci si attacca disperatamente. Hai detto giustamente, Vieri, dell'aspetto diciamo estetico, proprio di linguaggio filmico, il formato è quello un po' quadrotto, perché appunto, come dicevi, il regista ha proprio dichiarato: io non volevo che il pubblico vedesse quello che succedeva di fianco, volevo stare sempre, non è proprio una soggettiva ma quasi, volevo stare sempre con lui, con Saul, e vedere quello che lui vedeva in quel momento, e di fatto questo aumenta la tensione drammatica. Lui stesso direi che limita lo sguardo proprio per non soccombere, no? È una cosa molto, però è uno di quei casi rarissimi in cui l'estetica coincide assolutamente con la morale, no? Spesso si è parlato della liceità di ricostruire il campo di sterminio, e in effetti insomma io sarei più per il no, questa è un'eccezione in realtà, il documentario spazza via tutto, no? Questo è molto meno impressionante da un certo punto di vista del documentario vero e proprio, però è impressionante perché è proprio artisticamente la rappresentazione è così potente, ti immerge comunque attraverso il suono, attraverso la suggestione, eccetera, pur essendo castissimo appunto a livello della rappresentazione letterale, diciamo, dell'orrore, ti immerge proprio in questo assolutamente inferno. Assolutamente. Voglio ricordare che il film, per esempio, dicevi giustamente, nessun documentario potrebbe essere superato, sì, ma nessun documentario ti farà mai sentire cosa viveva, in questo caso Saul, qualcuno certo. che stava fuori dalla camera gas certo. con quei rumori, con quelle urla disperate, con quei graffi contro le porte. Questa cosa, questo aspetto per esempio dell'orrore, io è la prima volta in tanti anni che lo vedo in un film ed è una cosa veramente sconvolgente. Quindi ecco, questo per dire come aver scelto questo punto di vista non ha ridotto di fatto l'impatto emotivo del film, ma lo ha amplificato. Sì, sì, è certo. Purtroppo quando uno ha una quando scegli un punto di vista e lo porti fino in fondo con questo rigore, questa convinzione, certo, raggiungi un livello di forza straordinario. Però bisogna essere degli artisti, non è che poi no certo, non basta il tecnicismo, insomma, non è questo il caso, non assolutamente basta neanche la decisione, c'è proprio quel famosa cosa in più che distingue l'artista dall'artigiano, insomma. E un artigiano alle prese con una cosa di questo genere non ce la farebbe, certo, diciamo, certo. Sarebbe ridicolo probabilmente. Vieri, ricordiamo che il film è in una cinquantina di sale, quindi anche molto ben visibile. 40, esatto. 43 per l'esattezza. Esatto, sì. ma molto ben distribuita in tutto il territorio nazionale, quindi il mio consiglio spassionato, perché l'ho visto e so cosa si prova, è andatelo a cercare, piuttosto muovetevi da dove siete, ma il figlio di Saul è un film che va visto assolutamente, perché è un film in assoluto, al di là del periodo, del giorno della memoria e di tutto quello che di giusto c'è da fare per non dimenticare, è un film che aggiunge molto anche proprio a livello strettamente cinematografico, e in questo senso l'invito è assolutamente aperto. Sì, poi non vorrei che, insomma, è molto, faccio gli scongiuri, è molto probabile che vinca l'Oscar dopo tutti gli altri premi che ha vinto. Ricordiamo, ha vinto il Golden Globe per il miglior film straniero, ha vinto il Gran Premio della giuria a Cannes, è un film che ha già sbaragliato i palmarès, appunto, come dici, l'Oscar per il film straniero è lì, diciamo, pendente, no? Ma non vorrei che poi fosse troppo tardi. Assolutamente, andarlo a vedere subito per sostenere... Per sostenere il cinema di qualità. Grazie a Vieri Razzini di Teodora. Grazie a voi. Ci risentiamo. Ciao, ciao. A presto. E allora, Il figlio di Saul, davvero un film straordinario nelle sale cinematografiche italiane. Noi, come sempre facciamo alla Rosa Purpurea, saltiamo dal serissimo al facetissimo e andiamo a giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Che cos'è quella? Che c'entrano i broccoli sulla pizza? Basta, mi arrendo. Congratulazioni, San Francisco! Avete rovinato la pizza! Prima gli hawaiani e adesso voi. E allora, di che film si tratta? È la nostra domanda, la nostra solita domanda. Rispondete scrivendoci alla Rosa Purpurea a @radio24.it, inserite il titolo del film e il vostro indirizzo privato per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che sono lì, che vi aspettano e che sveleremo la prossima settimana, però fra poco vi faremo sentire un'altra traccia. Allora, facciamo così, andiamo subito a dare la linea alla regia adesso, fra poco torniamo insieme e parliamo di un altro straordinario film di qualità, d'autore e soprattutto Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, evidentemente è il weekend dei grandi premi cinematografici, si intitola Ti guardo, ne parliamo fra poco con Boris Sollazzo. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore! Amore! In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea continua come dicevamo con il cinema di grande qualità di questo fine settimana. Abbastanza importante, devo dire. Del resto la stagione è quella che è, insomma, si sa, gennaio e febbraio sono mesi decisivi, perché si va verso gli Oscar, perché arrivano finalmente nelle sale tanti film premiati. Abbiamo parlato del Figlio di Saul, straordinario, premiato a Cannes, e adesso andiamo al Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia. Anche in questo caso un'altra opera prima, ma anche in questo caso un'altra opera prima di un cinquantenne, cioè di un signore che prima di fare questo film faceva, magari continuerà a fare, anche il biologo, tra l'altro anche uno piuttosto, come dire, prestigioso, nominato nei consessi universitari. Stiamo parlando di Lorenzo Vigas, Alfredo Castro, il più grande attore sudamericano di questi ultimi anni, è uno dei più grandi ormai attori che si sta imponendo a livello mondiale. Alfredo Castro è il protagonista di questo film che si intitola Desde Allah Ti Guardo, la traduzione italiana, la storia di un cinquantenne venezuelano odontotecnico, a un negozio di protesi di dentiere sostanzialmente, una persona benestante che ha un rapporto, un innamoramento con un ragazzo di strada. Il rapporto a un certo punto cambia, di grande conflitto diventa un rapporto invece affettivo. E il film si sviluppa in questa direzione. Ascoltiamo la clip. È tornato. Papà è tornato. Sarebbe normale lasciarsi tutto alle spalle dopo tanto tempo. Tu hai dimenticato. Che vuoi da me? Voltati e togliti la maglietta. Chi sono quelli che ti hanno picchiato? Non lo perda, per favore. E allora, avete sentito anche una venatura noir dentro questa trama di Ti Guardo, della quale parliamo con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Buon pomeriggio. Allora, parliamo un po' di questo film. La sua precisione geometrica, davvero scienziato, diciamo così, a Venezia aveva subito fatto pensare, già dalle prime visioni, alla possibilità di portare a casa un premio importante. È arrivato il Leone d'Oro. Meritato? Meritatissimo, secondo me. Detto benissimo quando lo definisci un film scientifico, antropologico, veramente uno sguardo sulla biologia sentimentale di una classe sociale, di una classe anche emotiva di persone, ma anche di un continente, il Sud America, che rimane un continente di una vitalità creativa ma anche umana straordinaria. Vigas fa un capolavoro partendo da un presupposto di un sentimento visto al microscopio, in un microcosmo, e che però poi diventa metafora del tutto. Questo film viene aiutato anche dalla solita magistrale interpretazione di Alfredo Castro, che a me sembra sempre di più il Gian Maria Volonté sudamericano, un uomo che fa scelte molto potenti, molto forti, fin da ciò che vuole girare, da ciò che vuole interpretare. Hanno sempre un significato estremamente politico, estremamente forte i suoi film, e Vigas e Castro costruiscono davvero un matrimonio straordinario tra un'arte essenziale, che è quella di Vigas, e un'interpretazione clamorosa e potente, allo stesso tempo però molto sobria e molto sotto le righe di Castro. E questo porta a un film che ha in sé il racconto di un sentimento molto particolare. Da una parte il corpo, questo ragazzo di vita pasoliniano che sente nel proprio corpo la vitalità della gioventù, ma anche il nichilismo di chi vuole arrivare anche alla distruzione, all'autodistruzione. Dall'altra parte invece un uomo abbastanza agiato che nel corpo vede solo qualcosa da ammirare, solo qualcosa che gli consente di rimanere fuori dai giochi della vita. E questo si porta avanti per tutto il film. Da una parte c'è chi vivere la propria vita fino all'estremo e chi invece non ha il coraggio di fare un passo in avanti, e persino quella fine clamorosa, straziante, ma anche immobile, perché l'immobilità è la caratteristica di entrambi, nessuno fa un passo verso l'altro fino a gesti estremi, dimostra come certe cose non cambiano, e lì diventa anche la metafora di una lotta di classe sostanzialmente tra chi ha i soldi ma non ha la forza di vivere la vita e chi non li ha e invece però quella vita la vuole vivere fino in fondo, vuole portare il proprio rischio fino all'estremo. Ed è anche il racconto di un continente che vive con tradizioni straordinarie, e forse è quello la forza più grande di Des d'Allah, di Guardo. C'è chi guarda e c'è chi vive, e non potranno mai incontrarsi, per quanto possa essere forte l'attrazione l'uno verso l'altro, il sentimento l'uno verso l'altro. È un film estremamente semplice, se vogliamo, nelle sue premesse e nelle sue promesse, anche nel risultato che porta alla fine, ma è anche nella sua semplicità un film complesso, un lungometraggio strutturato che ti offre davvero tutto della vita e della visione che si ha all'interno di una società così particolare. Davvero un capolavoro, è incredibile come in questo fine settimana si sia costretti a dividersi, ed è una bella costrizione tra tanti lungometraggi belli, tra cui appunto Saul e Ti guardo, che forse così diversi tra di loro non sono. Ecco Boris, allora questo è l'assoluta promozione meritatissima di Ti guardo. Arriva nelle sale anche un film totalmente diverso, con una firma prestigiosissima come quella di Danny Boyle, che stavolta si presta, diciamo così, a una sorta di biopic molto sui generis, interpretato dal grande Michael Fassbender con Kate Winslet. Stiamo parlando di Steve Jobs. E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa. E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti? Sarebbe il più grande sconvolgimento tellurico dello status quo da sempre. Sapremo abbastanza presto se sei Leonardo da Vinci o se credi di esserlo. Tutti stanno aspettando il Mac. Dentro un garage ho inventato il futuro. Perché gli artisti guidano e i mediocri vanno alzata di mano. Gli eventi più importanti del XX secolo. Gli alleati che vincono la guerra e questo. Signore e signori, inizio! Boris, in un minuto, perché guardare Steve Jobs? Io un'idea ce l'ho, te la dico subito, perché Danny Boyle fa, secondo me, uno straordinario lavoro di regia, facendo una regia totalmente diversa da quella che ti aspetti da Danny Boyle. Cioè asciuga tutto, praticamente il film costa di tre grandi scene, se vogliamo, e di un'interpretazione magistrale di Michael Fassbender, che pone questo Steve Jobs nettamente più in alto di quello che abbiamo visto un paio d'anni fa. Beh, sarei tentato di alzarmi in piedi e applaudire la tua recensione senza aggiungere altro, perché è esattamente quello che penso, ed è, credo, esattamente la fotografia della potenza di un film che Danny Boyle racconta, come mai ha raccontato un suo film, non andando sopra le righe, affidandosi a due grandi attori, in particolare Michael Fassbender e Kate Winslet, e incentrando tutto sulla frase che abbiamo sentito nel trailer: sapremo abbastanza presto se sei Leonardo da Vinci o credi di esserlo. È evidente che Danny Boyle pensa che Steve Jobs abbia solo creduto di essere Leonardo da Vinci, perché in queste tre grandi scene, che constano delle tre presentazioni più importanti della vita di Steve Jobs, e anche qui è una scelta straordinaria, perché noi Steve Jobs lo conosciamo e lui ha autoalimentato il suo mito proprio attraverso quelle presentazioni, quel modo di raccontare i suoi prodotti. Lui ci fa vedere il dietro le quinte, cioè la vita di Steve Jobs attraverso la filigrana delle sue attività. Lui è un genio vampiro che succhia idee e geniali trovate dei suoi collaboratori e le fa sue, pur non essendo niente suo. È la dimostrazione di come il genio in questi ultimi 30 anni probabilmente è solo colui che sa capire cosa vuole la gente, anche se quello non è un bisogno reale. Probabilmente Steve Jobs è stato un mito finché è stato in vita, perché lui ha autoalimentato questo mito, e Danny Boyle ci vuole dire che così non è stato. In questo mi ricorda Il Divo, come Sorrentino racconta Sant'Andreotti, no? Come un grande ciarlatano sostanzialmente. Boyle fa lo stesso, ci riesce benissimo, cioè viene un po' punito dal pubblico americano che pensa ancora che Jobs sia un mito, ma la forza di Danny Boyle è per una volta andare controcorrente rispetto a quello che il pubblico vorrebbe, facendo un grandissimo film, e ho paura che Michael Fassbender possa beffare per l'ennesima volta Leonardo DiCaprio. andremo a vedere se sarà così, e comunque anche Steve Jobs è un gran bel film da vedere in questo strepitoso fine settimana. Mi sa proprio, Boris, che dovremo dividerci, come dicevi tu questa volta, nelle nostre scelte, oppure andare, come io immagino, al cinema 3 giorni di seguito a vedere tutto quello che di buono c'è. Allora, Boris, grazie per averci raccontato, come sempre, i migliori film della settimana. Ci sentiamo settimana prossima. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, buon cinema a tutti. Non è mica finita qui, e fra poco continuiamo a parlare di grande cinema con il ricordo di Ettore Scola insieme a Gianni Canova. Prima però andiamo ad ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Sai che mi piace il tuo vestito, è adorabile. Oh, questo straccetto, ti ringrazio, adoro come svolazza. Treno dei pensieri in perfetto orario. E allora, uno dei film che hanno contrassegnato davvero la prima parte di questa stagione cinematografica, La Rosa Purpurea, @radio24.it. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Adesso Viabilità, fra poco torniamo, il grande omaggio a Ettore Scola. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. La rosa purpurea. Ma io ti amavo. Ah sì? Beh, io credevo di no. Come? Come no? E anche dopo io. Per tutti questi anni io non ho fatto altro che pensare a te. Sempre, Luciano. Ma io no. Marciavamo con l'animo in spalla nelle tenebre. Marciavamo. Scusa, Gianni. Dieci anni fa ho sposato Antonio. Ho avuto due figli, poi la casa, il lavoro, i soldi che non bastavano mai. Anche tu avrai avuto questi problemi, no? Sì, naturale. Beh, insomma, le parole sono quelle che riconoscete sicuramente. C'eravamo tanto amati, uno dei grandi capolavori di Ettore Scola che ci ha lasciato questa settimana. Ne abbiamo parlato, abbiamo scritto su Facebook, avete sentito tutto, ma insomma La Rosa Purpurea non poteva assolutamente esimersi dal ricordare che cos'è stato questo regista per il nostro cinema, dal farlo con i suoni dei suoi grandi film. Qui c'eravamo tanto amati, 1974, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Aldo Fabrizi, insomma un cast che sembra il Dream Team della nazionale di basket dell'NBA, e con la firma, una delle firme più prestigiose della critica cinematografica e della storiografia cinematografica italiana, quella di Gianni Canova, che è in collegamento con noi. Ciao Gianni. Buongiorno a tutti. Senti, siamo partiti da C'eravamo tanto amati, abbiamo fatto bene? Sì, avete fatto bene, perché anche con Scola c'eravamo tanto amati. Devo dire, in questi giorni mi è capitato di fare parecchi collegamenti con varie radio per commentare e ricordare Ettore, e devo dire che ho sentito attorno alla sua figura un calore, un affetto, una partecipazione popolare come ai tempi della morte di Fellini. Persone che raccontavano i suoi film, anche quelli meno noti, non soltanto i suoi capolavori, che si commuovevano evocando immagini, ma appunto non solo di una giornata particolare, C'eravamo tanto amati, ma di Rocco Papaleo, piuttosto che di Dramma della gelosia, come se davvero il cinema di Scola avesse lasciato delle tracce profonde nel vissuto della gente, nel vissuto del popolo, nel vissuto degli spettatori. E a me piace ricordarlo anche per la sua bonarietà umana, a differenza di altri cineasti anche meno grandi di lui, che hanno una spocchia e ritengono l'inchino dovuto in loro presenza. Scola aveva invece un atteggiamento sempre di understatement. Qualche anno fa, 2 anni fa, avevo mandato un po' di studenti della mia università a Trevico, che è il paese dove Scola era nato, in Irpinia, più di 80 anni fa, a fare un documentario su di lui attraverso delle interviste con quelli che erano stati i suoi compagni di classe elementari, filmando i luoghi, insomma, della sua infanzia. E quando abbiamo presentato questo documentario fatto da studenti, Scola è venuto, l'ha visto, mi ci ha detto: ma siete andati fin lassù per me? Quasi stupito che la sua persona potesse suscitare questa curiosità e questa attenzione pubblica anche nelle giovani generazioni. E tengo molto a sottolineare proprio questa umanità del personaggio, questa autoironia anche, perché Scola era uno che non aveva l'atteggiamento di chi fa satira chiamandosi sempre fuori dal mondo su cui sta sorridendo o che sta satireggiando, no? Scola si metteva dentro, sapeva benissimo di far parte anche lui del mondo che era oggetto della sua satira. E questo era uno degli elementi, secondo me, della sua grandezza. Assolutamente. Tra l'altro, per un fatto generazionale, Gianni, chiaramente io quando Scola faceva C'eravamo tanto amati, Brutti, sporchi e cattivi, o Una giornata particolare, avevo 11-12 anni, insomma, come dire, non entravano in quel momento. Io incontro Scola personalmente con la famiglia nel 1987 e a quel punto lì mi guardo anche un po' indietro. Ecco perché io amo abbastanza, per adesso voglio chiedere a te che peso hanno, anche i film di Scola dei tardi anni 80, La famiglia, Splendor, Che ora è, che io trovo struggente. Ecco, è un regista che aveva saputo rinnovarsi rimanendo sempre se stesso, mi pare, no? Assolutamente, mantenendo alcuni elementi, per esempio uno dei tratti più specifici del cinema di Scola, che è la scelta di ambientare in una unità spaziale, quindi in un unico luogo, la grande storia, no? Tu dici la famiglia si svolge tutto dentro un appartamento, e dentro questo questa unità di luogo, un appartamento borghese del quartiere Prati di Roma, scorrono decenni, quasi tutto il Novecento, con le generazioni che invecchiano, i bambini che nascono, gli uomini che hanno i capelli bianchi, e resta però l'unità di luogo, quindi la casa, gli arredi, gli oggetti, quasi che gli oggetti, per esempio, fossero davvero i veri testimoni della storia, quelli a cui noi conferiamo emozioni, sensazioni, affetti, e restano lì a documentare la storia che è passata su di loro e ha lasciato le proprie tracce su di loro. E questa unità di luogo, dentro un tempo che scorre, ha sempre caratterizzato il cinema di Scola. Pensate a un film come Ballando Ballando, che si svolge tutto in una balera, senza una battuta di dialogo, non parlano i personaggi, ma il Novecento scorre tutto dentro questa balera, di decennio in decennio, cambiano le musiche, cambiano i balli, cambiano i look dei ballerini, e anche qui racconta tutta la storia in un unico luogo. Ma ancora, per venire ai film che dicevi tu dell'ultimo Scola, la cena si svolge tutto in un ristorante, concorrenza sleale, si svolge tutto in un'unica via di un quartiere romano poco prima del 38, insomma, delle leggi, dell'infamia delle leggi razziali che poi avrebbero portato alla deportazione degli ebrei. Ecco, questa unità di luogo, questa capacità appunto di riproporre un modello ma rinnovandolo sempre nel tempo. Senti, capacità di anticipazione tra l'altro anche notevoli, perché se guardi La terrazza pensi alla grande bellezza, se guardi Splendor ti viene in mente quello che è successo poi con l'Oscar a Cinema Paradiso. Insomma, come dire, ha saputo anche mettersi per primo su certi temi e su certi sguardi che poi hanno avuto proseliti, diciamo così, no? E poi la capacità di ragionare, di lavorare insieme agli attori, di fianco agli attori che lui adorava. In questo senso voglio farti sentire cosa ha raccontato Fanny Ardant della sua esperienza con Ettore Scola nella famiglia. Ama il cinema, è intelligente, e ha questo spirito umoristico, dunque sempre con distacco, è una grande anima, grande cultura. Dunque, piacere di stare con lui su un set, con gli altri attori, voilà, è come una vita che si passa, non è così il lavoro impegnato, la testa così, o gli occhi da pesanti di come si facevamo la guerra mondiale. Ho sempre amato su un set italiano questo piacere, voilà, di stare là. E ho sempre paura della importanza, quando uno dà troppo importanza alle cose. Questa era Fanny Ardant proprio l'estate scorsa, ci aveva raccontato così cosa pensava di Ettore Scola. Mi sembra un bellissimo ritratto per chiudere, Gianni. È bellissimo, e tra le cose bellissime che ha detto Fanny Ardant prenderei e sottolineerei una parola che anche a me colpiva molto quando andavo a trovare Ettore a casa sua a Roma, ed era sempre immerso nei libri, era un lettore onnivoro, insaziabile, leggeva di tutto, aveva una cultura sterminata e era con consapevole di come spesso questa capacità di visione che tu ricordavi di anticipare il futuro gli veniva proprio da come lui assorbiva attraverso i libri, le storie raccontate, ma leggeva di tutto, da Giovenale a Chekhov, insomma. E forse la sua capacità di intercettare il suo tempo e il nostro, di captare il presente e prevedere la direzione verso cui stava andando, gli veniva anche da questa stratificazione di storie, di culture, di linguaggi, di saperi che va assorbito, oltre che vivendo, anche leggendo tantissimo per tutta la sua vita. Grazie a Gianni Canova per averci ricordato, direi quasi pennellato, il ritratto di Ettore Scola. Ciao Gianni. Grazie a te, a tutti, arrivederci. E allora, adesso è il momento di parlare di cinema da vedere in casa, dopo il ricordo Ettore Scola, in collegamento con noi Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Chissà che nelle prossime settimane, ci sono già stati omaggi questa settimana a Ettore Scola, ma sicuramente arriveranno altri passaggi dei suoi film per vederli o rivederli, che è poi il compito che noi assegniamo alla TV rispetto al grande cinema. E rispetto al grande cinema, cominciamo a parlare del film con cui abbiamo giocato 7 giorni fa. Io sono cassato fra ci udette se mangiare gelato. Ma che tempo, 24 ore? Ah, io non mi invento niente. E questo che so? Che cazzo so? Playboy. Musica. Non essere cattivo, il film di Claudio Caligari che ha rappresentato l'Italia quest'anno nella corsa verso gli Oscar, non ce l'ha fatta entrare nelle nomination finali, rimane un film straordinario, rimane un film che vincono, tra l'altro con un cofanetto che mette insieme anche Amore Tossico, il film precedente di 30 anni prima, di Caligari, Sabina Alcariuti e Fabiano Fanini, entrambi di Roma. Settimana scorsa due premiati di Milano, questa settimana due premiati di Roma, per questo Non essere cattivo. Raccontiamo un po' questo cofanetto, Giulio. E appunto esce finalmente in DVD e Blu-ray uno dei grandi film italiani della scorsa stagione, che è appunto l'opera postuma di Claudio Caligari, che rimane un dimenticato del cinema italiano e che tra l'altro sta per essere omaggiato al Festival di Rotterdam con i suoi 3 film di finzione. È un melodramma questo fragile e virile, ambientato nell'Ostia degli anni 90, ed è anche uno squarcio antropologico allucinato che racconta un cambiamento epocale, una sorta di romanzo criminale che guarda i suoi anteroi come avrebbe fatto il grande maestro di Caligari, che era Pasolini. È un film che tra l'altro aggiorna l'esordio del regista Amore Tossico, che è contenuto nel cofanetto Cecchigori Entertainment, che è un vero e proprio omaggio a Caligari, ed era un film che raccontava il quotidiano di eroinomani, che era una generazione letteralmente consumata dalla droga, e per Caligari, che era un regista molto politico, significava anche un proletariato che non poteva più fare lotta perché appunto consumato letteralmente dalla società del consumo. Nel disco di Non essere cattivo ci sono tante cose, ma soprattutto ci sono molte scene tagliate che sono gli ultimi lasciti di questo grande regista, di cui sarebbe opportuno ora, qui lancio una sorta di appello, a recuperare quelli che sono i suoi primi documentari sulla politica e sui movimenti. E allora l'appello è lanciato, noi invece diamo un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana, perché c'è una bella accoppiata Robert Altman fra domenica e lunedì. Domenica Gosford Park su Iris alle 1:20 di notte, lunedì La fortuna di Cookie su Rai Movie alle 15:50. Giulio. E appunto partiamo imbastendo questo piccolo omaggio a Robert Altman, tra l'altro all'inizio dell'anno del 10° anniversario della sua morte. Altman, che è veramente un regista angolare degli anni 70 e che è stato colui che ha dissacrato, reinventato e accompagnato tutta una serie di mitologia cinematografica americana verso la modernità, e che appunto possiamo omaggiare con questo doppio spettacolo di film della sua terza stagione, quindi quella dagli anni 90 in poi. Gosford Park, domenica su Iris alle 1:20 di notte, quindi nella notte tra domenica e lunedì, che è un giallo di classe, dove classe è detto in tanti sensi, nel senso proprio di lotta politica e di grande raffinatezza, soprattutto del cast, è ambientato in una meravigliosa villa inglese degli anni 30. E poi La fortuna di Cookie, di su Rai Movie alle 15:50, che è un altro giallo, questa volta crudelmente farlocco e girato in commedia, è ambientato nello stato del Mississippi, nella contemporaneità, in una provincia allegramente marcescente. Sono veramente due chicche da recuperare per chi non le avesse viste. Così come assolutamente da vedere o rivedere venerdì 29 Camerieri di Leone Pompucci su Iris alle 17:25, un film che io amo molto, Giulio. Penso che anche tu lo ami molto, perché questo è veramente un piccolo film di culto di un regista che quest'anno tra l'altro è ritornato al cinema con una bizzarria che si intitolava Leone nel Basilico, film che ho apprezzato anche questo, insomma. E Camilleri era una commedia agra del 1994 su un ristorante che stava cambiando proprietà, una sorta di squallore, uno squallore tragicomico di cuochi e camerieri che si devono tenere il posto. Un film girato da uno dei pochi registi italiani, appunto Pompucci, che è in grado di maneggiare il registro del grottesco e raccontare una galleria di mediocri rovinati dalla vita e veri e propri bastardi anche. Tutti interpretati proprio da grandi comici, Di Loro Battantuono, Paolo Villaggio, Ciccino Grassia, Marco Messeri, insomma una chicca da recuperare. Assolutamente. Allora venerdì 29, Camerieri, Leone Pompucci su Iris alle 17:25. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E le note della sigla ci dicono che siamo veramente alla fine. Allora grazie per averci seguito. Puntata della Rosa Purpurea, settimana prossima alle 18 come sempre qui su Radio 24.